Capitolo 106esimo. I sette contro Tebe. Così numerosi giungevano i principi ad Argo con la speranza di sposare Egio oppure Deipile, figlie di re Adrasto, che, per non farsi dei potenti nemici, scegliendo soltanto due di loro come generi, il re consultò l'oracolo di Delfi. Il responso di Apollo fu: «A gioga un carro a due ruote il cinghiale e il leone che combattono nel tuo palazzo». Tra i pretendenti meno fortunati vi erano Polinice e Tideo. Polinice e il suo gemello Eteocle erano stati eletti re di Tebe dopo la cacciata di Edipo, loro padre. Si accordarono per regnare ad anni alterni, ma Eteocle, che salì al trono per primo, non volle abbandonarlo allo scadere dell'anno e, adducendo come scusa che Polinice si era dimostrato incapace e malvagio, lo scacciò da Tebe. Tideo, figlio di Eneo di Calidone, aveva ucciso suo fratello Melanippo durante una caccia. Benché egli affermasse che si trattava di un incidente, era stato profetizzato che Melanippo avrebbe ucciso Tideo e i Calidoni accusarono Tideo di aver voluto mutare il proprio destino. Anch'egli fu bandito dalla sua città. Ora l'emblema di Tebe è un leone e l'emblema di Calidone un cinghiale. I due pretendenti esiliati portavano queste insegne sui loro scudi. Quella notte nel palazzo di Adrasto cominciarono a disputare sulle ricchezze e sulle glorie delle rispettive città, e un omicidio sarebbe stato commesso se Adrasto non li avesse divisi e riconciliati. Allora, memore della profezia, egli diede in sposa Egia a Polinice e Deipile a Tideo, con la promessa di reinsediare ambedue i principi nei loro regni. Disse però che dapprima avrebbe marciato su Tebe, che era più vicina. Adrasto riunì i capi argivi, Capaneo, Ippodemonte, suo cognato Anfiarao, il veggente, e il suo alleato Arcade Partenopeo, figlio di Meleagro e di Atalanta, invitandoli a prendere le armi e a marciare verso Oriente. Fra questi prodi soltanto uno si dimostrò riluttante a obbedire, Anfiarao, il quale, prevedendo che tutti, salvo Adrasto, sarebbero morti combattendo contro Tebe, dapprima rifiutò di partire. Qualche tempo prima Adrasto aveva già litigato con Anfiarao per affari di Stato e i due uomini furibondi si sarebbero uccisi a vicenda se non fosse intervenuta la sorella di Adrasto, Erifile, che aveva sposato Anfiarao. Afferrato il suo fuso, Erifile si gettò tra i due contendenti, fece cadere le loro spade e li indusse a giurare di appellarsi sempre al suo giudizio nelle discussioni future. Saputo di questo giuramento, Tideo chiamò Polinice e gli disse: «Erifile teme di perdere la sua bellezza. Ora, se tu le offrissi la collana magica che Afrodite diede come dono di nozze alla tua Ava Armonia, moglie di Cadmo, essa appianerebbe la contesa tra Anfiarao e Adrasto, convincendo Anfiarao a venire con noi». Così fu fatto e la spedizione partì, guidata dai sette campioni, Polinice, Tideo e i cinque argivi. Ma taluni dicono che Polinice non era compreso nel numero dei sette e aggiungono il nome di Eteocle l'argivo, figlio di Ifi. Nel corso della loro marcia attraversarono Nemea, dove regnava Licurgo. Gli chiesero il permesso di abbeverare le truppe nelle sue terre e Licurgo acconsentì. La schiava Ipsipile li guidò alla sorgente più vicina. Ipsipile era una principessa di Lemno. Ma quando le donne di Lemno giurarono di uccidere tutti i loro uomini per vendicarsi di un oltraggio, essa salvò la vita di suo padre Toante. Fu perciò venduta come schiava e ora in Nemea era bambinaia del figlio di Licurgo, Ofelte. Posò a terra il bambino per un momento mentre guidava l'armata argiva alla sorgente e subito un serpente si avvinghiò alle membra di Ofelte e lo uccise con un morso. Adrasto e i suoi uomini ritornarono dalla sorgente troppo tardi e non poterono fare altro che uccidere il serpente e seppellire il bambino. Quando Anfiarao li avvertì che quello era un segno di malaugurio, istituirono i giochi nemei in onore del fanciullo, chiamandolo Archemoro, che significa colui che dà inizio a sciagure, e ciascuno dei capi ebbe la soddisfazione di vincere una delle sette prove. I giudici dei giochi nemei, che sono celebrati ogni 4 anni, indossarono da quel giorno vesti di colore scuro in segno di lutto per la morte di Ofelte e la corona del vincitore è intrecciata con infausto prezzemolo. Giunto sul Citerone, Adrasto inviò Tideo come suo araldo ai Tebani con la richiesta che Eteocle rinunciasse al trono in favore di Polinice. Quando tale richiesta fu respinta, Tideo sfidò i capi tebani a duello, l'uno dopo l'altro, ed emerse vittorioso da ogni scontro. Tosto i tebani non osarono più farsi avanti. Gli argivi si avvicinarono alle mura della città e ciascuno dei campioni si piazzò dinanzi a una delle sette porte. Tiresia il veggente, consultato da Eteocle, predisse che i tebani sarebbero stati vittoriosi se un principe di sangue reale si fosse volontariamente offerto in sacrificio ad Ares. Allora Meneceo, figlio di Creonte, si uccise dinanzi alle porte, così come il suo omonimo e zio si era gettato giù dalle mura in una precedente occasione. La profezia di Tiresia si avverò. I tebani furono invero battuti in una scaramuccia e respinti in città, ma appena Capaneo appoggiò una scala alle mura e cominciò a salirvi, subito Zeus lo colpì al capo con un fulmine. I tebani allora ripresero coraggio, fecero una furibonda sortita, uccisero altri tre dei sette campioni e uno di loro, che si chiamava Melanippo, ferì Tideo al ventre. Atena nutriva grande affetto per Tideo e, mossa da pietà, mentre egli giaceva a terra morente, si affrettò a chiedere a Zeus un miracoloso filtro che subito l'avrebbe rimesso in piedi. Ma Fiarao odiava Tideo, che aveva spinto gli argivi alla guerra, essendo uomo dall'ingegno pronto, si avvicinò di corsa a Melanippo e gli tagliò la testa. «Questa è la tua vendetta!» gridò, porgendo la testa recisa a Tideo. «Spacca il cranio e inghiotti le cervella!» Tideo obbedì. Atena, che arrivava in quel momento con il filtro, lo rovesciò a terra e fuggì disgustata. Dei sette campioni soltanto Polinice, Anfiarao e Adrasto erano sopravvissuti. Polinice, per evitare un'ulteriore strage, si offrì di stabilire la successione al trono in un duello con Eteocle. Eteocle accettò la sfida e nel corso di un'aspra battaglia i due contendenti si ferirono mortalmente a vicenda. Creonte, loro zio, assunse allora il comando dell'esercito tebano e mise in rotta i disanimati argivi. Anfiarao fuggì sul suo cocchio lungo le rive del fiume Ismene e stava per essere colpito alle spalle da un inseguitore tebano quando Zeus spaccò la terra con una folgore e Anfiarao sparì col carro e tutto e ora regna vivo tra i morti. Batone, il suo auriga, andò con lui. Vedendo che la battaglia era perduta, Adrasto montò il suo alato cavallo Arione e si diede alla fuga. Ma allorché in seguito udì che Creonte non voleva concedere sepoltura ai nemici morti, si recò ad Atene come supplice e persuase Teseo a marciare contro Tebe per punire l'impietà di Creonte. Teseo si impadronì della città con un attacco di sorpresa, fece prigioniero Creonte e affidò i cadaveri dei morti guerrieri ai loro parenti che innalzarono un grande rogo funebre. Ma Evadne, moglie di Capaneo, sapendo che suo marito era stato eroicizzato dal fulmine di Zeus, non volle essere separata da lui, poiché l'usanza imponeva che un uomo colpito dal fulmine fosse sepolto in disparte e la sua tomba cintata. Evadne si gettò sul rogo comune e ivi arse viva. Ora, prima dell'arrivo di Teseo a Tebe, Antigone, sorella di Eteocle e Polinice, aveva disobbedito agli ordini di Creonte innalzando in segreto una pira e ponendovi sopra il cadavere di Polinice. Affacciatosi a una finestra del palazzo, Creonte notò un bagliore lontano che pareva provenire da un rogo funebre. Recatosi a indagare, sorprese Antigone nel suo atto di disobbedienza. Chiamò allora il proprio figlio Emone, cui Antigone era stata promessa in sposa, e gli ordinò di seppellirla viva nella tomba di Polinice. Emone si finse pronto a fare quanto gli era stato detto, ma invece sposò Antigone in segreto e la mandò a vivere tra i pastori. Essa gli generò un figlio che molti anni dopo giunse a Tebe e prese parte a certi agoni funebri. Creonte, che era ancora re di Tebe, indovinò la sua identità dal segno del serpente che il figlio di Emone, come tutti i discendenti di Cadmo, recava sul corpo e lo condannò a morte. Eracle intercedette in suo favore, ma Creonte fu irremovibile. Emone allora uccise Antigone e se stesso. L'oracolo di Apollo sul leone e cinghiale deve aver suggerito in origine il saggio provvedimento di suddividere i regni allo scopo di evitare lotte politiche tra il re consagrato e il suo successore, lotte che provocarono la caduta di Tebe. Ma l'emblema di Tebe era un leone, in ricordo della Sfinge dal corpo di leone, sua antica dea, e l'emblema di Calidone era un cinghiale, probabilmente perché Ares, che aveva un santuario nella città, amava assumere le sembianze di quell'animale. L'oracolo venne dunque applicato a una situazione diversa. Scudi con emblemi di animali furono quasi sempre usati agli albori dei tempi classici. I mitografi hanno divagato sulla radice eri di certi nomi. Taluni sostengono che significa eris, lotta, anziché abbondante. Da qui il mito di Eritonio e di Erigone. Erifile significava in origine dalle molte foglie, anziché lotta tra tribù. Esiodo dice che Zeus spazzò via due generazioni di eroi, la prima a Tebe nella guerra per il gregge di Edipo, la seconda a Troia nella guerra provocata dalla bionda Elena. La faccenda del gregge di Edipo non è chiara, ma Esiodo si riferisce probabilmente a quella guerra tra Eteocle e Polinice che gli argivi combatterono dando il loro appoggio a un candidato al trono di Tebe. L'origine di un'analoga lite tra fratelli fu il vello d'oro che Atreo e Tieste si contendevano. Il possesso di quel vello dava diritto a occupare il trono di Micene. Inoltre Zeus aveva un gregge di arieti dal vello d'oro sul monte Lafistio. Pare che fossero l'insegna della vicina Orcomeno e fecero spargere molto sangue. Ipsipile, alta porta, fu probabilmente un appellativo della dea Luna, il cui corso descrive un alto arco nel cielo. E i giochi Nemei, come pure gli Olimpici, dovevano essere celebrati allo scadere del termine concesso al re sacro, vale a dire quando egli avesse regnato come marito della grande sacerdotessa per 50 mesi lunari. Il mito ricorda l'usanza che fanciulli fossero sacrificati ogni anno alla dea, come sostituti del re. La parola ofelte, che significa semplicemente benefattore, è usata qui nel senso forzato di ferito da un serpente, come se derivasse da ophis, serpente, e deilein, stringere assieme. Nemmeno archemoro significa inizio di sciagura, ma piuttosto ceppo di olivo, con allusione ai rami di olivo sacro che venivano recisi ad Atene, presumibilmente per incoronare i vincitori dei giochi. Dopo il disastro della guerra persiana, le corone di olivo furono sostituite da corone di prezzemolo in segno di lutto. Il prezzemolo era considerato di malaugurio, poiché serviva a provocare aborti. Un proverbio inglese dice: «Il prezzemolo prospera negli orti dei cornuti». Prosperava anche nella letale isola di Ogigia. L'aneddoto di Tideo che inghiotte il cervello di Melanippo ha un significato morale. Tale usanza antichissima, che avrebbe dovuto accrescere il valore e la combattività dei guerrieri, introdotta dagli Elleni e ancor seguita dagli Sciti nell'epoca classica, cominciava a essere considerata barbara. Ma la raffigurazione dalla quale i mitografi trassero la loro storia probabilmente mostrava Atena che libava all'ombra di Melanippo, approvando il gesto di Tidio. Il poema epico perduto sui sette contro Tebe aveva di certo strette analogie con il Mahabharata indiano, che glorifica la casta guerriera dei Mariannu. Ritroviamo lo stesso tema del fratello armato contro il fratello. Il comportamento dei guerrieri è più tragico e più nobile che nell'Iliade. Gli dei non assumono ruoli malvagi, il Sut è rispettato e Bhishma, come Gideo, beve il sangue del suo nemico. La fine di Anfiarao è un altro esempio della morte del re solare sul suo carro. La discesa di Batone, mora di rovo al Tartaro in compagnia di Anfiarao, pare si ricolleghi al tabù delle more molto diffuso in Europa, dove il mangiar more veniva associato con la morte. L'autosacrificio di Evadne ricorda il mito di Alcesti. Reliquie di una cremazione regale trovate in una tomba a Tolos ad Endra presso Micene lasciano supporre che, in quel caso particolare, il re e la regina fossero seppelliti assieme. E Persson crede che la regina morisse volontariamente, ma può darsi che fossero stati assassinati ambedue o colpiti dalla medesima malattia, e in nessun altro luogo si parla di simili esequie micenee. Il Sutte, che pare fosse un'usanza ellenica, fu ben presto abbandonato. Il fiume era un segno della presenza di Zeus, e poiché santo e impuro hanno pressappoco lo stesso significato nella religione primitiva, gli animali tabù del Levitico erano impuri perché santi, la tomba di un uomo colpito dal fulmine veniva cintata come quella di un vitello morto di carbonchio in una fattoria moderna e gli erano concessi gli onori dovuti a un eroe. La fossa funebre presso Eleusi, dove Pausania dice fossero sepolti i campioni, è stata ora identificata e aperta dal professor Milonas. Egli vi trovò una doppia tomba circondata da un cerchio di pietre e 5 tombe singole. Gli scheletri, come era usanza nel XIII secolo a.C., epoca alla quale vanno attribuiti i frammenti di vasi rinvenuti, non recano segni di cremazione. Antichi ladri di tombe, è evidente, portarono via le armi di bronzo e altri oggetti di metallo che erano stati sepolti coi cadaveri. Può darsi che questi ladri, appunto, trovati 2 corpi in una medesima fossa circondata stranamente da pietre, spargessero in Eleusi la voce che si trattasse della tomba di Capaneo colpito dal fulmine e della sua fedele moglie Evadne. Il mito di Antiope, di Emone e dei pastori pare sia stato tratto dalle stesse raffigurazioni che suggerirono anche il mito di Arne e di Alope. Siamo stati però privati dell'attesa fine della storia, che egli uccidesse il nonno Creonte con un disco.